le varie cose che possiamo monitorare, che possiamo capire, c'è l'indirizzo IP di chi scrive la recensione, il tipo di browser che utilizza e persino la risoluzione del suo schermo. Il contenuto però come lo filtra? Una stroncatura, per esempio, falsa. E lei come fa a saperlo che è falsa? Allora, noi, siccome siamo comunque un sito generato dagli utenti, chiediamo che siano la nostra community a segnalarci qualunque potenziale contenuto che non è corretto. Noi diamo voce a tutti i viaggiatori, a tutti gli utenti, e quindi non è che possiamo soltanto postare complimenti. No, no, io sto dicendo un'altra cosa. La differenza è fra chi si firma e chi non si firma. Perché chi si firma può dire quello che vuole, perché se ha mangiato male, dici io, Giovanni Minoli, ho mangiato male in quel posto, oppure ho dormito male in quell'albergo. Questo è un discorso che è giusto e chiarissimo. Se non mi firmo, beh, è un po' diverso se voi lo postate. Secondo me non è così diverso, è sempre un parere, dire. Ok, un parere su di me che si sa chi sono. È un parere su di me che si sa chi sono, fatto da uno che non dice chi è. Vabbè, però magari è comunque può essere una critica costruttiva. No, ma io prescindo da se fa critiche o se fa complimenti. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS se avete qualche avventura da raccontarci legata a TripAdvisor. Ci scrive Patrizio: gli esercenti non accettano le critiche, dicono sempre che è un... insomma, brutta parola. Beh, può darsi, però noi ne abbiamo avuta una molto brutta. Finita la trasmissione di ieri, su TripAdvisor, cioè sulla piattaforma di TripAdvisor, abbiamo trovato un primo post firmato Giovanni Minoli, con tanto di fotografia, proprio sul ristorante La Buca di Sant'Antonio di Gianluca Pacini, che aveva appena parlato. Abbastanza costoso, forse eccessivamente. Buona l'atmosfera, che però non migliora affatto i piatti molto mediocri e sempre le solite ricette tradizionali, senza alcuna fantasia. Firmato Giovanni Minoli. Poi un secondo post sul ristorante Gli Orti di Via Elisa, sempre a Lucca e sempre di Pacini, intitolato Peggio di così. Questo è il giudizio che avrei dato io. Ho cenato al ristorante per motivi di lavoro. Da piemontese la cucina popolare toscana già non mi affascina, ma le preparazioni di questo ristorante sono improponibili. Le misere zuppe mettono tristezza, il capretto è asciutto e insipido, i dolci banali. Queste recensioni si riferiscono entrambe al 9 aprile, cioè a ieri, entrambe scritte mentre noi facevamo la trasmissione. Avrei mangiato in due ristoranti diversi di Lucca, però sempre dello stesso proprietario, intervistato nella puntata di ieri, che si lamentava di TripAdvisor. E questi sarebbero i filtri di cui parlava la dottoressa Quattro, che garantisce i giudizi dei viaggiatori? Ecco. Davide Paolini è uno dei giornalisti italiani più esperti e famosi nel campo della gastronomia, conduce il Gastronauta su Radio 24, si è occupato nella puntata del 1 marzo proprio di TripAdvisor. Osteria da circa 15 anni, recensita su tutte le guide d'Italia. Ultimamente mi sto rendendo conto che TripAdvisor è veramente un grosso inganno. Io ho recensioni positive e negative come tutti, ma le negative, molte sono false. A metà dell'anno scorso ho filtrato qualcosa che non andava e mi sono detto, caspita, qui c'è qualcosa che non funziona. Una volta abbiamo visto una recensione scritta da noi pessima e dopo un'ora l'abbiamo vista in un altro locale, sempre dello stesso paese, scritta in un modo esaltante. Magnificato su TripAdvisor, questo albergo si è rivelato un'emerita schifezza. Ci sono delle critiche che magari di gente che non è neanche mai venuta. E ieri sera un cliente ci ha chiamato dicendoci: ma siete chiusi per ferie? No, perché ho letto su TripAdvisor che siete chiusi per ferie. Questo è un danno. Poi questa visita è stata fatta in giugno e il giudizio postato in dicembre. Io penso che il cliente che frequenta il ristorante ha anche il diritto di fare tutte le critiche sul locale, però da questo questo a dire cose magari che non esistono, ce ne vuole? E noi veniamo da 121 recensioni di TripAdvisor in questo momento, recensioni che abbiamo avuto false. Secondo me TripAdvisor deve prendersi le sue responsabilità, perché tutti pensano che siamo noi a iscriverci, invece no, non è così. La scelta era avvenuta perché era in testa alle classifiche e siamo andati, e il problema era che di quello che era tutto indicato, questi piatti meravigliosi, 4 su 5 non c'erano, non li avevano. Da anni sto combattendo con TripAdvisor, io non ho mai voluto, chiesto di essere su TripAdvisor, ci sono ritrovato. TripAdvisor in maniera molto banale potrebbe evitare allegando una ricevuta. Io chiedo anche a tutti i miei clienti che si trovano bene di non farmi recensioni positive, perché non le voglio. Non è un sistema corretto. Finché il sistema permette tanti abusi, io non voglio essere presente. Ecco, Davide Paolini, questa è una sintesi della trasmissione che hai fatto il primo marzo. Come ti spieghi questa cosa, Davide? Ciao, intanto grazie. Ciao, buongiorno. Ma sai, mi spiego, basta andare in rete e vedere quanti siti si offrono per praticamente comprare recensioni, fare recensioni o fare difese. Quindi diciamo che al di là di recensioni vere, io credo che ce ne sia il 50% che sono tutte camuffate, e in molti casi sono veramente da querela, gente magari che vuole vendicarsi di un ristoratore o d'altro. Ecco, ma io credo, Giovanni, che la cosa più grave sia questa, che tu non puoi uscire. Cioè, se tu chiedi a TripAdvisor toglietemi, oppure chiedi a TripAdvisor correggete il mio indirizzo, correggete quello che avete scritto perché è completamente falso, nessuno ti risponde e tu continui ad essere in rete. Ecco, ma come mai nella tua trasmissione del primo marzo TripAdvisor non ha voluto parlare? Voi l'avete cercati, no? Sì, no, l'abbiamo cercati, e la portavoce che tu hai sentito ha detto che era in viaggio, che non poteva intervenire, ha dato un altro nome. Quest'altro nome ha detto che lui non interveniva, che non sarebbe intervenuto, non giustificandosi, ha detto no, non intervengo. Ecco. Quindi a questo punto io l'ho anche annunciato durante la trasmissione, abbiamo chiesto a due responsabili e questi si sono rifiutati di intervenire. Ecco, spesso sono giudizi anonimi, questo è il punto centrale della questione? Ma guarda, io ti racconto solo una cosa, che tempo fa sono andato in un ristorante, e qualche giorno prima di fare la trasmissione su TripAdvisor, e mi hanno detto di controllare una cosa, mi hanno fatto vedere, dice, nella recensione che è stata fatta su di noi abbiamo una stanza laterale dove è molto fredda e dove c'è una stufa pellet. Mi ha fatto vedere, io conosco bene questo ristorante anche se ha cambiato proprietà, e ho detto forse ci sono stati dei lavori di modifica, in realtà non esisteva. Poi in un'altra recensione c'era scritto che c'era vino della casa, quindi un, diciamo, vino sfuso, in realtà c'era una bellissima lista dei vini. E ho chiesto loro come spiegavano questo, anche per loro, cioè, inspiegabile. Ecco, per ma è vero, Davide, è vero che dopo un certo momento di salita nella classifica arrivano e incominciano a chiedere abbonamenti. È così? L'ho sentito dire. No, questo non mi hanno, nessuno me l'ha nessuno confermato. Nessuno te l'ha detto. No, però molti mi hanno confermato questo. Ad esempio, un ristoratore fiorentino mi ha detto che un tempo i rappresentanti di vino si presentavano e dicevano: se mi compri una cassa di vino ti regalo tre bottiglie. Ora invece dicono: se mi compri una cassa di vino ti regalo 3 recensioni positive su TripAdvisor. Accidenti. Ecco, ma tu, una cosa come quella che è capitata a noi, l'hai sentita? È abbastanza pazzesca, perché noi stavamo in trasmissione, appena ha parlato quel signore di Lucca, sono apparsi questi commenti su TripAdvisor. Cioè, una cosa davvero, insomma, inquietante. Io me la spiego. Sì, qualcuno che vende recensioni ha voluto far capire la propria forza. Vedete come sono in grado di fare. Sì, ma io ho telefonato di nuovo alla signora, no? E gli ho detto, signora, noi facciamo la trasmissione domani. Boh, se vuole intervenire, naturalmente ci ha fatto capire che non poteva, che non avrebbe fatto. Ma sai, loro parlano tanto di democrazia, appunto, della rete, giustamente, perché secondo me è giusto che la gente possa criticare. Certo, ma quello non è in questione, ma se uno non l'ha fatto. Dato che ha raccontato tutti i filtri che si fanno, l'ha raccontato in un modo così dettagliato, sono tutti in America sti filtri, in Italia lavorano quattro persone, insomma. No, ma non esistono, ecco. I filtri non ci sono. Ecco. I filtri non ci sono. Diciamo questo. Il fatto che se tu, cioè un ristoratore chiama e dice guardate che avete sbagliato la foto, la foto che appare non è del mio ristorante, nessuno risponde e continua a rimanere quella. Grazie. C'è un numero di telefono sbagliato, un indirizzo sbagliato. Non cambia niente. Cioè, non cambia niente. Aspetta che c'è Alessandro da Milano, può darsi che tu dica. Pronto, buongiorno. Torminoli. Buongiorno. Senta, guardi, io lavoro per un resort del nord Italia, per Gardaland, e mi regola curo le recensioni per Gardaland Hotel, soprattutto. La problematica del fatto sta che la maggior parte delle recensioni non sono veritiere, anche per quello che riguarda le varie lamentele degli item che abbiamo, per esempio nel ristorante ci viene detto che abbiamo il latte in polvere, non è assolutamente vero, il latte è fresco nei dispenser ma mai in polvere, prodotti magari scadenti, però ho capito, vero, vabbè, insomma, quindi critiche non fondate, questo ci dice. Un'altra cosa poi veramente la lascio in tutta sincerità, anche perché come giustamente lei diceva, non c'è una firma, noi non sappiamo neanche a chi risalire qui in Italia. Io, ahimè, non vorrei che tutto fosse un pizzo di richieste da TripAdvisor, in modo da non subire più critiche infondate. Non so se ci sono. Ma insomma, è capitato a me. Ieri io le ho raccontato una storia che è capitata a me. La ringrazio. Mentre eravamo in trasmissione, hanno fatto una valutazione che naturalmente era impossibile, semplicemente perché stavamo in trasmissione. Roberto da Latina ci dice: una vergogna, se io esprimo un'idiozia nel mio lavoro, mi buttano fuori. TripAdvisor è un casino, vabbè, Roberto da Latina, mi pare che, insomma, c'è un problema, lì c'è un problema, Mario, quattro persone che lavorano in Italia, il fatturato non si può sapere, i filtri abbiamo visto, insomma, qualche problema c'è lì. Sì, probabilmente fanno anche del business in Italia, quindi sarebbe interessante capire se pagano le tasse in Italia, come tutti gli imprenditori che ci stanno ascoltando in questo momento e i capi famiglia. L'altra cosa poi è che viene fuori chiaramente che internet, ahimè, è vero che è un pezzo di libertà, ma è anche un gran pezzo di mediocrità e di falsità, che è un'altra cosa. Leggevo una statistica l'altro ieri, il 30% del traffico online è falso, generato da computer, quindi puoi immaginare quale attendibilità. Lo fa Pietrangelo. deve essere allargato il discorso, l'esempio questo per quanto riguarda TripAdvisor, ma deve essere dilatato anche a quella che è l'enciclopedia offerta su internet. Io stesso personalmente ho dovuto fare un'azione civile contro l'enciclopedia ufficiale per una vicenda che mi riguardava personalmente, perché non sono attendibili. No, cioè non vanno mai alle fonti. Non poi abbiamo controlli. Anche la cronaca offre esempi di ragazzi che nel solco delle antiche beffe, a cominciare dai falsi modigliani, hanno trollato dentro dei falsi dati dove sono caduti importanti giornali, autorevoli testate, giornalisti che hanno seguito quello che c'era scritto. Perché si fidano e non fanno il controllo. Quindi errori madornali, l'ultimo immediatamente dopo la notizia della morte di Manlio Sgalambro, mettendo dentro delle notizie false e poi svelandole proprio per farne beffa. Sara? Poi no, volevo dire una cosa perché Giovanni non l'ha detto, ma la cosa pazzesca sono le informazioni del profilo finto di Giovanni su TripAdvisor e dice questo il suo profilo: viaggio prevalentemente per lavoro, quando sono spesato di tutto. Addirittura. Magari sarebbe una bellissima cosa. Un'ultima storia. Giovanni Sera Zanetti, proprietario della cantina Bentivoglio, attiva dal 1987 a Bologna. Ecco, voi siete in causa con una persona che ha fatto commenti pubblicati su TripAdvisor, commenti secondo voi non veri. Che cosa hanno detto? La signora sosteneva che per tre volte, sei mesi prima di quando lei ha pubblicato la cosa, le avevamo servito del vino avariato. Vino avariato? Come avariato. Fa a essere avariato il vino? Non si sa. Poi soprattutto se uno lo fa per tre volte vuol dire che si vuole anche molto male. Voi avete avuto altre esperienze con TripAdvisor? Beh, sa, noi siamo un ristorante famosissimo, sì, lavoriamo dall'87, è chiaro che di recensioni ne abbiamo, siamo uno dei locali eccellenti di TripAdvisor perché abbiamo ricevuto, non so, quasi centinaia di recensioni. All'interno di questo centinaio ovviamente ce ne sono alcune sperticatamente buone, altre sperticatamente cattive e altre nella media, insomma, credo che siamo secondo, che siamo in... normali, come tutti i locali. Ecco, ma i filtri, lei crede nella efficacia di questi filtri? Guardi, onestamente non glielo so dire, non ho la più pallida idea, non so quali siano, non lo so. Io poi insomma nel caso nostro specifico siamo riusciti a risalire alla persona, ci siamo sentiti un po', insomma, diciamo così, offesi da questa cosa, che secondo noi ovviamente non aveva nessun valore reale, e abbiamo pensato di fare questa cosa. Abbiamo scoperto dopo che ce n'erano altre cause di questo tipo. Tantissime. E quando era stato possibile riferire alle persone, i nostri colleghi un po' in tutta Italia, ma forse non solo in Italia, avevano fatto azioni contro le persone, altrimenti contro TripAdvisor. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Prima della pubblicità vi leggo questo tweet: la rete spesso è la dittatura dell'ignoranza e della delazione che ha il colore della diffamazione. E infatti Giorgio Ragazzini ci scrive: a questo punto il problema non è più neanche l'anonimo, se qualcuno si è fermato Giovanni Minoli. Mix 24. Oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi, e io che ballare non l'ho fatto proprio mai. Mi sono perduto in un valzer che gira per noi. Ti è venuto in mente in metropolitana? In metropolitana, esatto, è successo questo, l'ho presa ancora prima, era presto, era perfino vuota, c'era un vagone deserto e una coppia, sfacciatamente innamorati, lui imbranatissimo, lei soave, meravigliosa, bella, ed è riuscita a coinvolgerlo in un valzer che dura tutto un giorno, si chiama Valzer di un giorno di Gianmaria Testa, una canzone deliziosa. Vai, con la canzone. Dire, ma oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi, e io che ballare non l'ho fatto proprio mai. Quota rosa, oggi la quota rosa? Giovanni, tra l'altro oggi è una giornata mi sto simonellizzando, mi sto simonellizzando. Infatti ieri sera, guardando la televisione, ho sentito una cosa che mi ha risvegliato dal torpore delle invasioni barbariche. Tra l'altro oggi è una giornata particolare perché tu vieni qui e esce un articolo sul Foglio di, no, l'hai visto? Sì, sì, l'ho letto. Pietrangelo Buttafuoco, siciliano come Pippo, deve essere tutto... Pietrangelo Buttafuoco, bravissimo. Sì. Che scrive... giganteggia in femminilità a Colorado la Chiara Francini, anzi lui non dice la Chiara perché siciliano parla bene, sì, no? Come noi polentoni, non mette l'articolo, no, di fronte al nome è una perfetta Jessica Rabbit, ma non si riesce a disegnarla cattiva perché fa ridere. Ma Pietrangelo, ho preso quasi fuoco, capito? Ma... la potenza della scrittura prende fuoco. Siete cose fettose. Io sono gelosa, Pietrangelo. Io mi chiamo Sara, non Chiara. Forse ti sei sbagliato, è quello. Comunque, io volevo dire una cosa. Ma che mi combini? Io non sapevo niente. No, si chiama sorpresa. Io volevo dire una cosa. Ricominciate a scrivere le lettere d'amore, o voi ragazzi in ascolto, e diventerete l'uomo d'oro come Pietrangelo. Un uomo. Era Caterina Caselli, che compie gli anni quest'oggi, facciamo i complimenti. Marina Milone ha preparato la sua storia che andrà in onda nella seconda ora. Mario, dopo tutto questo, cosa bolle in pentola? No, dopo tutto questo io voglio sapere cosa avete fumato stamattina, perché non è possibile. Cioè. Chiediglielo a Sara. Sara, guarda, dopo me lo dici, voglio l'indirizzo, perché ha degli effetti interessanti. Allora, e cosa bolle in pentola? La libertà. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire. Oggi una... è il giorno della libertà e abbiamo scelto Gaber perché si decide sulla libertà di un uomo che, piace o meno, ha segnato un ventennio italiano, Silvio Berlusconi. Che cosa sarà di lui? Quale sarà la misura che si deciderà di applicare alla sua persona e alla sua persona politica anche a questo punto? E le alternative sono due: l'affidamento ai servizi sociali o gli arresti domiciliari. Cosa cambia in questo scenario tra una decisione e l'altra? Beh, quasi tutto. E cosa deve fare secondo voi, cari Giovanni e caro Pietrangelo Berlusconi? Perché, insomma, è un passaggio molto Berlusconi importante. Intanto farà quello che dicono i giudici come prima cosa. Beh, questo, sì. E la seconda cosa, continuerà sicuramente a fare politica, secondo me. Pietrangelo? Continuerà e a maggior ragione ne farà un'amplificazione per se stesso in termini proprio di sfacciata propaganda. Mm. È un regalo che gli è stato fatto, paradossalmente così. Io uso invece una felice definizione di Giuliano Ferrara: farà il prigioniero libero. Farà il prigioniero libero, carino. È molto bella. Allora, c'è da ballare il sirtaki, non perché si stia avvicinando la bella stagione, ma perché in effetti oggi c'è una notizia che avete già sentito echeggiare, e cioè che c'è la prima emissione di debito greco dopo la crisi. Pensa, Giovanni, 2 anni fa la Grecia era, diciamo, morta. Virtualmente fuori dall'euro, morta, una cura da cavallo sul quale secondo me ci sarà invece molto da riflettere per il futuro, e invece piazza una tranche da 2,5 miliardi di euro, 5 anni, sperano di spuntare un tasso al 5,2-5,3, sarebbe un successo. Un grande successo. Sì, ha ricevuto richieste, questa è la cosa pazzesca, per 11 miliardi, cioè 4 volte di più. Il mercato è veramente una cosa da perché è pieno di liquidità. È pieno di soldi. Gabriele ci dice: altro che quota rosa, Sara... quota unica, Salamini. Non è il drive-in, certo non è il drive-in, è un gineceo furbo, è Matteo Renzi che ha il vento in poppa, ha messo solo donne come capolista. Allora c'è la soave Ale Moretti al nord-est, mentre la Chienge l'ha messa terza. La peperino Pina Picerno è al sud. Poi c'è Alessia Mosca al nord-ovest, Simona Bonafè al centro e Chiara Chinnici, figlia del giudice Chinnici, e tra gli strali di Crocetta, oltretutto, che indispettito non voleva... Contestava. Non la voleva, invece va alle isole. Ora, noi non siamo in zona Aristofane, non si tratta di immaginare le donne al Parlamento come quel grande fece in scena, però Mozart sì, e quindi io dico che Matteo Renzi a maggior ragione si conferma essere Silvio Berlusconi nella prosecuzione su un altro catalogo, e quindi Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Pure Madamina. Pure Madamina. Io non so più cosa fare. No, tu dici, raccontaci, il d'amore? Raccontaci qualcosa di serio, Mario, perché vabbè, qui veramente siamo carsi. Io posso andare oltre 300 km all'ora, che in miglia sarebbero assai. È quell'auto da corsa italiana. Si chiama Francesco Bernulli. È normale la ressa. È un bel vedere, non trovi? Con le ruote scoperte. Che hai contro i parafanghi? Niente. È fantastico, è sì. Cars, Francesco Bernoulli, era per stare sul serio, come certo. Siamo noi ovviamente, e per parlare di che cosa? Dell'auto in America. È una sfida molto affascinante, a me piace tanto seguirla, io spero anche a chi ci ascolta, ci sono due sfide parallele che dovrebbero anche farci un po' riflettere. La prima è su chi fa l'auto più americana, e la seconda è sull'industria più innovativa, e le due cose sono legate all'auto, perché sul primo punto Ford all'auto... Oramai si fondono. Sì, hanno esatto. Esatto, sono due cose che vanno insieme, perché per fare ricerca ci vogliono tanti soldi. Sì. E Ford ha l'auto più made in America, è un pick-up molto, molto, molto bello, tra l'altro, e i produttori stanno migrando tutti a casa. Ford ha annunciato che dal Messico sposta uno stabilimento in America con grande certo, entusiasmo oramai, dei consumatori. Oramai si reindustrializza, tornando... si reindustrializza gli Stati Uniti. Esatto, stanno sì. Tornando in America. Esatto. Sul secondo punto, cioè sull'innovazione, sul futuro, è molto interessante quello che sta facendo Tesla, esatto. Di cui noi abbiamo già parlato sì. Tra i primi, devo dire, sì. non la rivendichiamo troppo, però lo diciamo, perché Tesla sta facendo un progetto che si chiama Gigafactory, non guardarmi così buttafuoco, sono investimenti per 5 miliardi di dollari, su che cosa? Sulle batterie per l'auto elettrica, in realtà sono le batterie per tutto di lunga durata. Esatto. In una parola, i telefonini dureranno un po'. ore e ore. In una parola, l'energia del futuro. Cari amici che impazzite per i gadget, io vi dico che sta per arrivare l'iWatch a settembre, e l'orologio smart di Apple, che cosa farà? Fornirà i dati biometrici, la connessione con l'iPhone, con l'iPad, con l'iMac. Due display disponibili e un prezzo di partenza pare molto alto, $1,000. Salamino! Io lo dicevo che andava a finire in un solo modo, che se ne andavano a cantare nei matrimoni. Allora, la risorsa dell'antimafia, l'eroe civile, la guest star di servizio pubblico, cioè Massimuccio Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, apre un locale a Palermo, si chiamerà Pizza e Pizzini. E lo dicevo io che appunto il suo padrino politico, il mitico Ingroia, alla fine sarebbe andato a cantare nei matrimoni. E quindi ecco Palermo, la sua storia, il suo destino. La pezza è più grave di queste piaghe, che veramente infama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Dai, facci l'ultima buona. Era l'unica cosa buona fatta da Benigni. Andiamo avanti. Te la faccio, senti. Queste sono le ultime volontà e il testamento di Madame D. A Monsieur Gustave Eich, lascia il quadro noto come ragazzo con mela. Wow, cosa? Chi è Gustave Eich? Temo di essere io, caro. Allora, questo è il trailer dell'ultimo film di Wes Anderson, Gran Budapest Hotel, lo segnaliamo, una trama molto bella e via. Canzoniere! E innamorato si vergogna e non vorrebbe che si sapesse, ma forse non vorrà che si sappia perché ha paura di me. Avrà soggezione a dichiararsi per mio rivale, mi dispiace assaissimo di questa macchia. Ah, se sapessi come far a levarla. Mix 24. Professor Simonelli, dov'era il canone ieri sera? Siamo di corsa. Il canone, e lo sentiamo, se la regia me lo manda lo sentiamo subito. Ah, sentiamolo. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta me chi don fa tanto. E cioè? È partito il nuovo canale di Sky che si chiama Atlantic e che è un canale dedicato alle fiction, qualcosa di italiano, ma soprattutto le grandi serie americane. Ah, fantastico. Ma voi sapete che io sono sempre un po' perplesso su queste grandi serie. Ieri sera mi sono messo diligentemente, rinunciando anche alla Champions League, sì? A vedere questa House of Cards. Devo dire che tutte le mie perplessità sono rimaste. Ieri sono rimaste lì, non sono così belle. Ma le Idi di Marzo è molto più bello, il potere, il mistero, questi dialoghi così icastici, stentori, allusivi. Il politico dice c'è molta carne al fuoco, la moglie gli risponde io amo la carne ma adoro il fuoco, si allude a chissà che cosa, io non lo capisco, però il pubblico italiano... insomma, lei è andato fino a Cannes per vedere il film, dovrebbe capire, eh? Le ama moltissimo. Senta, io però ho indovinato il canzoniere, eh? Ah no, non si può, lo dica. Quel Serenissimo di Buttafuoco, cosa volete che scelga? Lo lasciamo dire, aspetti, Buttafuoco può dirlo? No, non può dirlo. Mi piace, professore. Niente, non si può dire, non lo dirà nessuno perché non c'è tempo. Volevo chiederle, ma TripAdvisor? Ah, TripAdvisor è una storiella fantoziana, avete tempo? No, poco, 30 secondi. Sì, 30 secondi. Una volta a Colonia, ero a Colonia con mia moglie, ho preso un bellissimo albergo, ma io vado con la Michelin. Arriva mia figlia e dice, no, non fate colazione qui, perché c'è una recensione che dice che è pessima e costosissima. Cerco un bar, in tutti i modi, non lo trovo, facciamo colazione, una colazione ghiottissima, sontuosissima, vado a pagare e dico quant'è, dice, è compresa nel prezzo della camera. Ah, questo era quello che... allora, un attimo, Valentina da Padova. Valentina, pronto? Pronto? Dica, buongiorno, dica. Mi sembra la scandiera di Goldoni. Giusto. Brava, bravissima signora. Un Feltrinelli per lei. Autografato? Autografato naturalmente dal nostro grande Buttafuoco. Grazie. Stanza 707 è il primo romanzo di Francesco Merlo, un romanzo avvincente che sembra prima di tutto un atto d'amore per Parigi. È nata da qui, da questo amore, l'esigenza di conservare questa sensazione, il romanzo? C'era la voglia di raccontare Parigi, sicuramente, che è una città dove ho vissuto a lungo 12 anni, è una città che ha fatto innamorare tutti e quindi in qualche maniera anche me. Però credo che l'esigenza più forte era quella di cambiare il mio rapporto con le parole. Ho trafficato con le parole per tutta la vita come giornalista. Ecco, infatti, voglio dire, scrivere un romanzo è un'esigenza improvvisa oppure è una lenta maturazione che esplode tutta insieme? Ma i giornalisti ce l'hanno tutti, il romanzo nel cassetto, il libro nel cassetto, una maniera appunto diversa di giocare con le parole, mentre usi le parole per informare, ma soprattutto per guadagnarti lo stipendio, no? Invece quando giochi con la letteratura diventa una droga, lo fai a scopi puramente voluttuari. Insomma. Proprio, è un piacere profondo, però un grande giornalista come lei ha paura nel cambiare genere perché si espone a un giudizio di tipo completamente diverso. Sì, soprattutto in un mondo di malintenzionati, perché il giornalista è ovviamente qualcuno che poi ha criticato, io poi sono un polemista, quindi assoluto. Sono entrato nel sangue, nella carne di vari problemi, spero di non avere mai offeso nessuno, ma insomma sicuramente ho dato fastidio, per cui mi metto nelle mani anche dei malintenzionati, ma mi fa piacere anche questo. Un po' di masochismo non fa male, va bene. Ma dal punto di vista della scrittura, ecco, l'ambiguità che viene permessa al romanziere insegna qualcosa al giornalista? Sono due mestieri molto diversi, come il ping pong e il tennis, quindi si somigliano, ma c'è un transfert negativo. Secondo me il giornalista deve stare molto attento a non usare la tecnica giornalistica nella narrazione, e la stessa cosa il letterato, per cui sono dei travasi che in genere non funzionano, spesso i letterati rovinano i giornali e i giornalisti rovinano i libri. Ecco, però nel suo romanzo diciamo che il giornalista sembra aver regalato al romanziere un modo di essere tagliente, appunto, lei dice polemista, osservazioni ironiche, colte, proprio del grande reportage, quindi c'è un mix che è inscindibile da qualche parte. C'è lì dentro, c'è, e io ho messo tantissime cose che ho visto e avevo già raccontato su Repubblica o anche sul Corriere o sugli altri giornali dove sono stato, quello è sicuro, c'è. Rivissute, quindi proprio rielaborate. Rivissute, rielaborate attraverso una fantasia più più grande e un controllo della scrittura molto diverso. Ecco, ma la scrittura cambia completamente. Cambia completamente, sì, perché è una, quella del giornalista è una scrittura che si chiude dentro una composizione breve, per quanto possa essere lungo un articolo rimane comunque breve, quindi deve avere un ritmo e un incalzare continuo, quindi ci sono gli attacchi. E si può solo andare avanti o si può anche ritornare indietro? Si può andare avanti, si può ritornare indietro, è facile sbagliare, io non so se ho sbagliato, questo spero che... Questo 707, no, chissà il prossimo. Ecco, mi dica un'ultima cosa, una buona ragione dal suo punto di vista, al nostro pubblico per leggere con la voglia di farlo questo romanzo, La stanza 707. Perché è rapsodico come la vostra trasmissione, perché è jazzistico. Beh, jazzistico, eh? Siamo jazzistici, lo dice Francesco Merlo, possiamo crederci. Stanza 707, una donna, una cantante, una musicista, una produttrice, una talent scout di grande successo, unica in Italia. È Caterina Caselli che oggi compie gli anni, gli facciamo gli auguri. Quella che raccontiamo oggi e che Marina Milone ha curato è la sua storia.